rescue suit. Still painted your caps and apparitions of my evil. Federico Missori. Alla chitarra alla mia destra Daniele D'Ercole. Batteria e voce Marco Reda. E adesso siete pronti per ricominciare? Voce e chitarra Simone Reda.